Buonasera a tutti e tutti, 23esima puntata di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano. Ma il saluto stasera va a Lorenzo, il cui cuore ha cessato di battere in una maledetta bellissima domenica di giugno. Ieri corteo tante persone per ricordarlo, per ricordare chi era Lorenzo. Da qualche parte ho letto: mi sembravi immortale, sembravi un supereroe. Immortale certamente no, ma un supereroe a volte sì, o magari un supereroe per i poteri forti, per quei poteri forti che a seconda di come si presentavano, pescicani delle agenzie, delle agenzie immobiliari, oppure chi voleva, diciamo, respingere i migranti, a cui ogni volta si palesava Lorenzo davanti al suo casco e con la sua canottiera rossa. Ecco, forse per alcuni di loro è apparso proprio un supereroe, sempre a difendere non gli ultimi, come è stato detto, e neppure i primi, gli eguali, cioè quelli che fanno della solidarietà tra eguali il loro punto di forza per una vita più dignitosa, per una vita migliore. E al corteo ieri, appunto, tutti quelli tra cui parlavamo, l'ho visto ieri, l'ho visto ieri l'altro, ci siamo sentiti mercoledì, e questo appunto era Lorenzo, cioè sempre partecipe, sempre presente, e quindi sempre ostinato nella sua continuità a cercare sempre comunque un modo, una via per riscatto, diciamo. E quindi stasera non abbiamo una scaletta, cioè nel senso una scaletta c'è, è una scaletta dettata da un po' dall'umore nostro di questi giorni, una scaletta che non fa riferimento a un genere musicale o a un paese particolare. E quindi una scaletta che poi alla fine, a certo dei brani, si è rivelata un blues sostanzialmente, un blues deserto, un blues in particolare del Mali, in particolare delle zone comunque che gravitano intorno a questa nazione. Certamente Lorenzo non conosceva l'Africa direttamente, ma la conosceva attraverso la voce, attraverso i racconti dei tanti migranti con cui si è fermato a parlare per capire la loro situazione prima di venire qua giù, prima di venire da lontano, e il durante, per capire la loro situazione nel momento in cui si trovavano ad affrontare i labirinti della burocrazia, che a sua volta erano dettati da una volontà politica di respingerli, di non fargli partecipi, diciamo, o di non volere che una solidarietà appunto tra uguali, in cui non ci sono gli ultimi o i primi, c'è chi arriva più lontano e chi è nato nello stesso quartiere, ma comunque una solidarietà grande che ieri appunto si è manifestata durante questo corteo di saluto. E quindi niente, non c'è una scaletta precisa, ci sono alcuni pezzi, il primo pezzo è un pezzo Epistone Abyss, è un gruppo musicale rap sostanzialmente, ma che questo pezzo non è rap, è un gruppo musicale proveniente, le cui origini sono appunto nel Congo, nella Repubblica del Congo, non la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica del Congo, quella che più consuetudinariamente viene chiamata Congo Brazzaville, appunto dalla capitale, quella è stata avanti al Congo che più conosciamo, il Congo Kinshasa. Il gruppo è Bisson Abisso, canta che in Lingala, la lingua in cui canta spesso, alternato al francese, e in questo pezzo è un po' in Lingala, un po' in francese, appunto in Lingala significa tra di noi. Sì, e partiamo da questo gruppo appunto franco-congolese, i Bisson Abisso, con una canzone molto particolare. I Bisson Abisso in questo album, nell'intero album da cui è tratta questa canzone, e cioè Racine, Radici, hanno reso omaggio a Franklin Busaka, cantante, poeta e soprattutto militante congolese che è stato assassinato nel 1972 dopo un'insurrezione che buttasse fuori quelli che erano al governo. E lui nelle sue canzoni, nelle sue poesie parlava sempre, lui era un panafricanista, diciamo, quindi un'Africa unita, libera. Per esempio, una delle sue canzoni più famose si intitola Les Immortelles, dove parla di Ben Barka, Lumumba, Simon Kimbargo, tutti assassinati o morti in nome del panafricanismo, della libertà. In un'altra canzone parlava della la nostra storia che è fatta delle lotte. Ci ascoltiamo dei Bisso Nabisso, Liberté, questo è per Lorenzo. Oh Yahweh, mponi no kotika, mwana na lola suka, afeka, atelana. Pesa yenguya, amona lumière. Ces voix, ces cœurs, c'est important quand on lutte pour une véritable cause en chantant. Combien de temps, ton joie, ton belle, ton sueur humaine. Et Africa, quel est ton DESTN? En tant que clan DESTN, à part révolter, on se tourne le champ de révolter posté. Le changement, dans combien de temps? Le respect pour mon continent, en continuant à subir. On se tire nos propres balles dans le crâne. Pire, combien de temps va tenir en s'obstinant? Combien de temps faut-il sous terre pour enfin l'ouvrir? Comment sourire, terre, quand on plaide est en train de mourir? Africa, ouais. Terre, mer d'amour, t'es dans la mire. Les larmes amères, nous on t'admira jusqu'à la mort. continent victime de jalousie et de haine. Combien de temps l'espoir sera la seule assurance dans nos cœurs? Combien de temps va-t-on agir en persistant dans l'erreur? Africa, unité, liberté. Tu resteras la terre mère pour l'éternité. Combien de temps sur toi, tension et malédiction? Chez le noir, personne n'entend, attention, trop longtemps qu'on attend. Questi erano i Bisso Nabisso con Liberté, con le parole di Franklin Busaca, che profeticamente aveva detto tutti gli uomini devono morire, ma alcune morti pesano più di altre. E appunto ci piace ricordare anche le ultime ore sostanzialmente, perché, o almeno le ultime ore le abbiamo viste, ma non tanto per un ricordo, semplicemente per testimoniare una vita fino all'ultimo respiro. Lorenzo Sabato era all'Emerson e si parlava come sempre un'eccezionale normalità della sua vita. Infatti il giorno dopo alle 2 aveva fissato alle 2 di domenica aveva fissato una riunione in un'occupazione e non c'è mai arrivato. Appunto il cuore ha cessato di battere. Sabato sera il suo casco con Giglio Viola è una delle sue tante canottiere, la più portata, diciamo, la canottiera rossa, ecco. E quindi niente, l'abbiamo ricordato questi ultimi momenti, l'abbiamo visto proprio perché testimoniano quella che è stata tutta la vita, una vita incessantemente a parlare, a discutere, a lottare, a partecipare all'iniziativa. Infatti il corteo ieri si è concluso in Santa Croce, il suo quartiere, quello l'ha visto da quando era piccolino, da quando aveva 12, 13, 14 anni più o meno. L'ha visto iniziare a partecipare alle iniziative e appunto non si è mai fermato. E ogni momento era buono per lottare, ogni momento era buono per discutere, ogni momento era buono tra un'iniziativa e una discussione, ogni momento era buono per scherzare, per parlare anche di altro. E quindi niente, continuiamo la nostra trasmissione, continuiamo i nostri pezzi di musica africana. Il prossimo è Sureba, è un pezzo di Salif Keita, il musicista, un grande musicista albino in questo caso, e essere albini in Mali vuol dire essere sostanzialmente essere marginato. Salif Keita, proprio mi dice il cognome, pur proveniente da una famiglia non tanto nobile, una famiglia guerriera, una famiglia che costantemente da quando in Mali è stato è stato invaso sostanzialmente, da quando ci sono stati tentativi di invasione del Mali fino a quando ha ottenuto l'indipendenza, la famiglia Keita, che è una famiglia nobile, tra virgolette, se così si possono considerare nobile le famiglie africane, ha lottato per l'indipendenza del proprio posto, diciamo, e per l'indipendenza dell'intero Mali. Salif Keita, nato albino, si è dovuto scontrare contro una sorta di ostracismo, che comunque esistono anche, ostracismi che comunque esistono nei paesi africani, e oltre all'ostracismo, diciamo, da un punto di vista sociale, albino in Africa è veramente una difficoltà, ecco, sostanzialmente. Nonostante tutto, è diventato, studiando con una bellissima voce e affinandola, studiando a quella che è uno dei luoghi principali della musica, dell'insegnamento dei suoni, della musica africana, cioè l'Accademia Musicale di Bamako, ha fatto tantissimi LP, e in tutti gli LP si sente proprio l'anima dell'Africa, l'anima del riscatto. Il prossimo pezzo è Sureiba di Salif Keita. Thank you. ricordiamo i nostri social, il sito da cui ci state ascoltando per la diretta, wombat.noblogs.org, e il nostro Twitter, twitter.com/radiowombatfi, Facebook radio-wombat-firenze e la nostra mail postawombat@enziberia.net. Sul sito wombat.noblogs.org potete trovare il palinsesto della radio e anche tutte le trasmissioni passate, scaricando o ascoltando direttamente i podcast. Vi ricordiamo che Uru ha un profilo Twitter proprio, che è uru-rw di Radio Wombat. Era, mi sembra, il 1986. E Lorenzo, insieme ad altri compagni, altri giovani del quartiere, sempre in Santa Croce, occupa una stanza, un garage, diciamo, e fonda il CSA Sparta, Circolo Sportivo Autogestito Sparta, 15 anni, 20 prima del fenomeno, diciamo, delle palestre popolari, come simbolo chiaramente ci aveva il pugno chiuso dei 100 metristi durante la premiazione alle Olimpiadi del 1968 in Messico. E niente, questo proprio per dire, oltre alla tenacia, oltre alla perseveranza, oltre alla capacità di essere quasi ubiquo a uno sfratto e due ore dopo a uno sgombro, col casco e la maglietta. Ecco, la capacità molto spesso anche di anticipare i tempi, di leggere, diciamo, quelle sono le tendenze. Quindi nel 1986 CSA Spartaco, Centro Sportivo Autogestito Spartaco, ma anche il Movimento Lotta per la Casa, inizia nel 90-91, dopo la prima grande mandata, diciamo, la prima grande fase durante gli anni 70 dell'occupazione di case, diciamo, durante tutti gli anni 80, praticamente in tutta Italia, in qualsiasi situazione, c'era questo riflusso, diciamo, questa impossibilità, incapacità, sotto certi aspetti anche non volontà, diciamo, di occupazione delle case, anche rispetto ai rapporti di forza estremamente sfavorevoli. Ma credo che quando è iniziato il Movimento Lotta per la Casa a Firenze nel 1991, ecco, è stato, se non il primo, uno dei primi, ecco, delle situazioni italiane a riproporre, ma non solo in termini di discussione, ma proprio in termini pratici, quindi con l'occupazione, la prima in via del Giglio, a riproporre e a mettere al centro dell'attenzione nella propria città, in questo caso a Firenze, la necessità di un tetto per tutti. E da lì si è sviluppato, è andato avanti, ora sono 25 anni in cui appunto il Movimento Porta per la Casa si è allargato, si è espanto. E ha portato avanti con la preziosa presenza di Lorenzo innumerevoli occupazioni. Ecco, mi premeva anche in questo caso ricordare questo, proprio perché appunto, se Lorenzo vive e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai, anche alcune, non tutte, perché a volte ci sono errori, ci sono sbagli, ecco, ma qui ora in questo momento si ricordano solo quelle che possono essere, diciamo, le indicazioni rispetto a quella è stata la sua vita fino all'ultimo respiro, e cioè la volontà, la capacità, la tenacia di difendere la solidarietà tra uguali e la capacità di leggere e praticare concretamente, anticipare sotto certi aspetti le tendenze, i tempi, o comunque interpretare le tendenze e pensare subito a un'applicazione pratica per soddisfarle, per portarle avanti. Il prossimo pezzo è un pezzo di Ale Falcaturre, un pezzo che abbiamo già dato, mi sembra, in una delle primissime trasmissioni. È un pezzo che ridiamo volentieri. È un pezzo tratto dall'LP Talking Timbuktu. L'LP, in questo caso appunto un LP, perché è stato stampato inizialmente su vinile e poi solo successivamente riportato su CD, un pezzo, un LP nato dalla collaborazione di un musicista americano, statunitense, in questo caso Ray Hooter, e un Talking Timbuktu, appunto parlando di Timbuktu. Timbuktu è il posto, il paese, la città principale, la città storica, più vicina al paese, alla città, dove è nato, abitato e è morto Ali Farkature, Nyafunke, tant'è appunto che veniva chiamato appunto il sindaco di Nyafunke. E il pezzo è Bonde, Ali Farkature. Thank you. de kill to one of them for them again. And I why bond and I why bond boy. And I why bond. Questo era il Far Caturé Magliano, appunto, e uno dei grandi del chitarristi africani, è stato un iniziatore di quello che adesso viene chiamato il blues del deserto, canta in tutte le lingue che compongono il Mali, e cioè i Songhai, i Pel, i Tamashek, Bambara, con i soldi fatti con la vendita di dell'album suo Ali Farka del 96, ha comprato le pompe per tirare fuori l'acqua dal Niger e irrigare per poter trovare la terra, fare la terra per coltivare e sfamare così il popolo di Nyafunke. L'album era Radio Mali e nel 97 Ali Farka Touré annuncia che per alcuni anni, diciamo, si consacra insieme agli altri abitanti all'agricoltura del suo villaggio di Nyafunke. E appunto gli investimenti sono installare la pompa per l'irrigazione, ma anche per lo sviluppo della cittadina, delle case, diciamo, ed anche come corollario con l'album Nyafunke, che significa attraverso la terra, anche per l'educazione e contro un apartheid che comunque un razzismo comunque esiste, no? Perché comunque ancora le reti dell'economia sono in mano anche in Mali ai discendenti dei francesi, o comunque a quelli si sono, pur essendo maliani, si sono asserviti ai francesi. E quindi niente, questo era Bonde Ali Farka Touré. Vediamo quelli che sono gli appuntamenti di questa settimana. Fin da domani c'è un concerto qui nella piana, rock contro gli atomostri, organizzato dalle varie strutture, dalle varie gruppi di base che hanno portato avanti la lotta sia contro l'inceneritore sia contro l'aeroporto. La stanno tuttora portando avanti, perché la lotta, seppur appunto c'è stato uno stop temporaneo all'inceneritore e così ai progetti rispetto all'aeroporto, comunque è importante accumulare forze, comunque accumulare coscienza contro quello che potrebbe essere una devastazione, non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista sociale, anche da un punto di vista ambientale. E quindi domani, sabato 10, al Polo Scientifico del Sesto, fin dalle 18:30, gli studenti di sinistra, il collettivo gli studenti del Polo Scientifico, il Comitato Ampiciano contro l'aeroporto, le mamme non inceneritori e l'Assemblea per la Piana contro le nocività organizzano questo concerto proprio lì, proprio dove dovrebbe, o nelle vicinanze dove dovrebbe passare questa pista portuale, dove dovrebbe essere gettata questa colata di cemento e nello stesso momento nelle vicinanze del sito dove vorrebbero costruire l'inceneritore di Case Passerini. Quindi appuntamento fin dalle 18:30 domani al Polo Scientifico. Un po' più tardi, verso l'11, a CSA Next Emerson, un concerto organizzato dal collettivo Nuovi Rumori, un concerto hardcore sostanzialmente. Vi leggo i gruppi che ci sono, è l'ultimo probabilmente, anzi sicuramente è l'ultimo concerto, diciamo, perché domani sarà un po' un concerto sauna, sia una temperatura come questa di oggi, e cioè Teste Floor da Roma, Sistwit Toll da Perugia, Bilzebit da Padova e Saf e Cuore da Firenze, Punk Hardcore. Mentre invece un appuntamento, no, non qui a Firenze, ma un appuntamento a cui come Radio Wombat ci andiamo, vi partecipiamo e partecipiamo anche con proposte in circa, mi sembra, tre seminari che chiaramente vertono tutti più o meno su la radio, sulla possibilità su come costruire una radio, su come trasmettere una radio, su quali sono le problematiche rispetto all'AM. L'AM è attualmente, le frequenze AM attualmente sono un po' una situazione come quella che era l'FM quando sono iniziate le radio libere, e quindi la necessità di capire per Radio Wombat e un po' per le altre radio di movimento come muoversi. E quindi tutto ciò all'Hack Meeting 2017, che si terrà il 15, 16, 17 e 18 giugno a Venaus in Val di Susa, non a caso e significativamente. 4 giorni, laboratori aperti a tutti su software libero, condivisione dei saperi, autoproduzioni, encrypt, sicurezza delle reti e come autodifendersi sostanzialmente dall'invasione tramite rete, insomma, questi grandi fratelli che ci vogliono spirare, vogliono sapere quello che facciamo, quello che diciamo, quello che ci piace, proprio per avere un controllo sempre più completo sulle nostre vite. E quindi come difenderci da tutto ciò. Ci sarà un campeggio libero, nel senso che è un campeggio in cui non si paga, ma estremamente organizzato. E l'Hack Meeting, occorre ricordare, è un incontro autogestito e autofinanziato. E quindi l'essere presenti è già, e quindi partecipare non solo ai seminari, ma anche a migliorare l'infrastruttura, a stendere cavi, costruire i cessi, diciamo, a mettere a posto e così via, lo rende ancora possibile e il meglio possibile. Le notizie sono, le info sono su www.hackmeeting.org. Ricordiamo, seppur lontano da Firenze, 15, 16, 17, 18 giugno a Venaus in Val di Susa, l'Hack Meeting 2017. Ritorniamo adesso a sentire un pezzo di Salif Keita, cioè Sina. Eccola qua, Sina di Salif Keita. Sin Il prossimo pezzo è un pezzo dell'orchestra Maraventa Stardimus. Il pezzo si intitola Nahualwana, che significa falco della notte, appunto una canzone in cui Wazimbo, in questo caso, è il leader dell'orchestra, il cantante, diciamo, il solista dell'orchestra Maraventa Stardimus Zambique, parla, descrive appunto questo falco della notte, questa ragazza che la sera, diciamo, va da un locale all'altro, sempre libera sostanzialmente, in cui tutti gli chiedono qualcosa e lei sostanzialmente a tutti dice di no, non ne importa niente sostanzialmente, e appunto viene descritta in questa sua peregrinare notturno. E questo pezzo, Nahualwana, è tratto dal primo LP anche in questo caso, perché si sta parlando di fine anni 70, inizio metà anni 80, che l'orchestra Maraventa Star di Mozambique ha inciso due LP. Il secondo è Picnic, il primo è Independence, e appunto diciamo sostanzialmente ripercorre quelli che erano anche allora e quelli che erano già stati, diciamo, i passaggi politici e sociali della lotta di liberazione che il Frelimo ha portato costantemente avanti contro il colonialismo portoghese fino appunto all'indipendenza nel 1975-76. E l'Orchestra Maraventa Star di Mozambique era appunto un ensemble in cui di volta in volta, nonostante appunto abbia inciso due dischi, l'Orchestra Maraventa era l'orchestra, diciamo, che suonava, quella che suonava alla TV di Stato, ma in questo caso TV di Stato non è da intendersi come la nostra RAI, c'era solo un canale, per esempio venivano proiettati i film che Godard aveva girato, diciamo, queste pellicole Godard aveva girato insieme ai registi, diciamo, alle prime armi del Mozambico, e appunto poi venivano riprodotti alla TV, oppure venivano le interviste venivano fatte agli abitanti dei villaggi, venivano rimandate e riprodotte alla radio. L'orchestra Maraventa Star di Mozambique era appunto una degli ospiti fissi della radio mozambicana e successivamente della, della tribù mozambicana. E quindi questo ensemble in cui di volta in volta si alternavano quelle che erano le voci più incisive, più combattive, diciamo, del Mozambico degli anni di fine anni 70 e inizio anni 80. In questo caso appunto il solista è Wasimbo, che canta appunto insieme all'orchestra Maraventa Star di Mozambico, Noa Hualwana. Famba você com loco de pele, achia que mude maco erro. Drelele, se saco famba você com loco de pele, achia que mude maco erro. Maria Antônia me puta até com a mani maquerro. Ia Maria Antônia me puta até com a mani maquerro. Lasci che ho conta ma para la cotte pelle, puta te qua mani ma uluana. Drilele, si ho conta ma para la cotte pelle, puta te qua mani ma uluana. Maria Antônia me puta até com a mani uma uluana. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maria Antônia me puta até com a mani uma uluana. Oh, Mi matamo kungweti Dova ningaka Stolo ni stolo Kamanga ho Da ujinja la sua Kupunga kumana niskopana Na ele shangula Mi matamo kungweti Maria Dova ningaka Stolo ni stolo Kepako Ni matambo kumweti Dova ningaka Stolo ni stolo Kamanga ho Na ujinja la sua kumunga kumana neskopla Ahe le shangula Oh ah oh oh oh ah oh ahe ahe Senchana ni vusete Namushangwa hulwana Oh ah oh ah Senchana ni vusete Loko veko yeke lunga nwanyanu ngantrongwana Nicolai matata maja o quata Maria dombe quatro da matanio onengwa Maria kune o quata matanio a kune masaka na zebra appunto Nahualuana, questo falco della notte Maria che gira nelle notti di Maputo sola, ma non perché appunto è sola, solo semplicemente perché vuole rimanere sola, vuole rimanere indipendente, non si vuole accompagnare con nessuno, chiunque appunto gli chieda appunto se è sola e risponde sì e ci rimango sola almeno per il momento. E dopo aver lasciato il deserto del Mali per essere andata sul mare del Mozambico, appunto Maputo, la capitale, è proprio sul mare, rimaniamo nel mare perché andiamo in un arcipelago, Capo Verde, famosissimo musicalmente, e ascoltiamo la regina della Morna, Cesaria Evora, la cantante scalza, perché avevo l'abitudine di cantare senza calzature, e di lei sentiamo Miss Perfumado. Deixa morrer de sonhar na sombra de boldinho de uma pequena gentil de um miss perfumado. Deixa morrer da sonhar na sombra de boldinho de uma pequena gentil de um miss perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer de sonhar. É assim uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer te soñar. Es una bomba, nace niño. Si bombe feliz, nace niño. A mí también me es feliz. Na sombra voltinho ma carinho. De mis perfumado. Se pode feliz nasce ninho. A mim também me é feliz. Na sombra voltinho ma carinho. De mis perfumado. Assim deixa morrer. O flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Sempre Radio Womba, sempre Uru, suoni, musica, notizie dal continente africano. L'avete ascoltata in streaming su wombat.noblogs.org. Sullo stesso sito, su wombat.noblogs.org, troverete il palinsesto e le notizie di Radio Wombat, così come i podcast, cioè le registrazioni di tutte le trasmissioni di Radio Womba, di tutte le trasmissioni di Uru, di Fuoco alle Polvi, insomma tutte le trasmissioni che si susseguono su Radio Wombat. E ricordiamo anche che Uru ha delle repliche, cioè la diretta è venerdì appunto, il venerdì dalle 21.30, le repliche sono la domenica dalle 10 e lunedì dalle 14. Ricordiamo anche i social di Radio Wombat, cioè twitter.com/radiowombat.fi, ma basta digitare Radio Wombat, facebook.com/radio-wombat-firenze, l'indirizzo di posta elettronica posta wombat@insiberia.net. Uru ha anche il proprio profilo Twitter in cui, oltre a dare notizie sulla trasmissione, ci sono anche notizie retweet da quello che succede in Africa, dall'Egitto da Cairo a Cape Town, dall'Egitto al Sudafrica. E vi lasciamo qui per stasera con la voce bellissima di Cesaria Evola. Ciao Pellone. Ciao Lorenzo.